Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dalla quinta festa di teatro ecologico Frankenstein di Mary Shelley a cura di Cristiano De Murtas. Parte terza di 5. Lettura di Manuela Mandracchia, musicazione dal vivo di Paula and Ken. È con notevole difficoltà che ricordo la prima era della mia esistenza. Tutti gli eventi di quel periodo mi appaiono confusi e indistinti. Ero in preda a una strana molteplicità di sensazioni. Ci volle davvero molto tempo prima che imparassi a distinguere le operazioni dei miei diversi sensi. La vista, tatto, l'udito, l'olfatto, che si erano attivati tutti insieme. Ricordo che gradualmente una luce più forte mi costrinse a chiudere gli occhi. Quando mi avvolse l'oscurità, provai turbamento. Ma appena riaprii gli occhi, la luce si riversò nuovamente su di me. Camminai e immagino scesi, ma subito provai una grande alterazione nelle mie sensazioni. Prima ero stato circondato da corpi scuri e opachi, inaccessibili al mio tatto e alla mia vista. Ora invece scoprivo di potermi muovere liberamente e che non v'erano ostacoli che io non potessi scavalcare o schivare. La luce poi si fece sempre più opprimente per me e camminando il caldo mi stremava. Così cercai un luogo dove potessi ripararmi all'ombra. Lo trovai nella foresta vicino a Ingolstadt. Qui giacqui sulle rive di un ruscello a riposare dalle mie fatiche finché non provai i morsi della fame e della sete. E questo mi risvegliò dal dormiveglia e mangiai delle bacche che trovai attaccate ai rami degli alberi o sparse a terra. Placai la mia sete al ruscello, mi ridistesi e mi riprese il sonno. Era già buio quando mi svegliai. Sentivo freddo. Una certa paura istintiva nel trovarmi così solo. Prima di lasciare il tuo alloggio mi ero coperto di alcuni indumenti, ma ora non bastavano a proteggermi dalla brina notturna. Ero un povero disgraziato, indifeso e avvilito. Non sapevo niente, non riuscivo a distinguere niente. E sentendomi invaso dal dolore da ogni parte, io mi sedetti e piansi. Di lì a poco una luce gentile si fece largo in cielo, recandomi una sensazione di piacere. Saltai in piedi e vidi una forma radiante salire tra gli alberi. La fissai con una sorta di meraviglia. Si muoveva lentamente, ma illuminava i miei passi e mi misi nuovamente in cerca di bacche. Faceva ancora freddo quando trovai ai piedi di un albero un enorme mantello con il quale mi coprii e mi sedetti a terra. La mia mente era piena di idee indistinte, era tutto confuso. Sentivo la luce, la fame, la sete, il buio. Suoni innumerevoli rimbombavano nelle mie orecchie e da tutte le parti mi venivano incontro gli odori più vari. L'unica cosa che riuscivo a distinguere era la luna splendente sulla quale fissai il mio sguardo con piacere. Si susseguirono vari passaggi tra il giorno e la notte e io cominciai a distinguere le mie sensazioni una dall'altra. Gradualmente vidi con chiarezza il ruscello trasparente che mi dava da bere e gli alberi che mi facevano ombra con le loro foglie. Mi deliziò la scoperta che il piacevole suono che di frequente giungeva alle mie orecchie proveniva dalle gole di quegli animaletti alati che spesso si frapponevano tra la luce del cielo e i miei occhi. Cominciai anche ad osservare con maggiore accuratezza le forme tutto intorno a me e a percepire i limiti di quel radioso tetto di luce che si stendeva sopra di me. A volte io tentavo di imitare il piacevole canto degli uccelli, ma non ci riuscivo. A volte desideravo anch'io esprimere a modo mio le mie sensazioni, ma i suoni rozzi e inarticolati che prorompevano da me mi spaventavano, riportandomi al silenzio. I miei occhi si abituarono alla luce e a percepire le cose nelle loro forme esatte. Ora distinguevo un insetto da un filo d'erba e piano piano anche un tipo d'erba da un altro. Un giorno, presso dal freddo, trovai un fuoco lasciato acceso da qualche mendicante vagabondo e venni sopraffatto dal piacere per il calore di cui facevo esperienza, dalla gioia, infilai le mani nelle braccia ardenti, ma subito le sfilai con un grido di dolore. Che strano, pensai, che la stessa causa abbia effetti così diversi. Esaminai gli elementi di cui era fatto il fuoco e con mia gioia scoprii che era composto di pezzi di legno. Mi misi subito a raccogliere dei rami, ma erano bagnati e non bruciavano. Mi dispiacque e mi sedetti a guardare il lavorio del fuoco. Ma la legna bagnata che avevo posato accanto al focolare si seccò e prese fiamma. Riflettei sull'accaduto e toccando i vari rami capì. Quando giunse la notte portando il sonno con sé, avevo una grande paura che il mio fuoco potesse spegnersi. Allora ricoprii con cura di legna secca e foglie e sopra vi misi dei rami bagnati. Poi mi distesi a terra sopra il mio mantello e sprofondai nel sonno. Mi svegliai che era mattino e il mio primo pensiero fu quello di andare a controllare il fuoco. Lo scoprii e il soffio di una brezza leggera rapidamente mi riaccese la fiamma. Poi tornò la notte e vidi con piacere che il fuoco, oltre al calore, dava luce. E mi resi conto che alcuni avanzi del cibo lasciato dai viaggiatori erano arrostiti e avevano un sapore molto più gustoso delle bacche che raccoglievo dagli alberi e cercai dunque di trattare il mio cibo allo stesso modo, mettendolo sulle braccia ardenti. E così scoprii che le bacche si rovinavano, mentre le noci e le radici ne guadagnavano molto. In ogni caso il cibo cominciò a scarseggiare e spesso passavo l'intera giornata a cercare invano qualche ghianda per mitigare i morsi della fame. Così decisi di abbandonare quel luogo per cercarne uno dove i pochi bisogni di cui avevo fatto esperienza potevano venire soddisfatti più facilmente. Trascorsi 3 giorni in questi vagabondaggi e infine mi trovai in aperta campagna. Erano circa le 7 del mattino e anelavo a un po' di cibo e a un riparo. Alla fine scorsi una piccola capanna su un rialzo del terreno. Era la prima volta che ne vedevo una e ne esaminai la struttura con grande curiosità. Poi, trovando la porta aperta, entrai. C'era un uomo anziano seduto vicino al fuoco che preparava la sua colazione. Si voltò al rumore e quando mi scorse lanciò un grido fortissimo e scappò dalla capanna, correndo per i campi con una rapidità difficilmente immaginabile per il suo corpo debilitato. La sua figura, diversa da qualunque altra avessi visto fino ad allora, e la sua fuga, in qualche modo mi sorpresero. Ma rimasi incantato dall'aspetto della capanna. Qui la neve e la pioggia non potevano penetrare, il suolo era asciutto. Questo luogo mi apparve un rifugio splendido. Divorai con avidità i resti della colazione di quel pastore, pane, formaggio, latte e vino. Quest'ultimo, tuttavia, non mi piacque. Dopodiché, sopraffatto dalla stanchezza, mi distesi su un pagliericcio e mi addormentai. Mi svegliai a mezzogiorno e decisi di riprendere il viaggio. Misi quello che restava della colazione del contadino in una bisaccia che avevo trovato lì e procedetti per i campi. Diverse ore, finché al tramonto arrivai a un villaggio. Che miracolo che mi sembrò! Le capanne, le casette, le sontuose ville attirarono a turno la mia attenzione. La verdura negli orti e il latte e il formaggio alle finestre di alcune case stuzzicarono il mio appetito. Entrai in una delle case più belle, ma avevo appena messo piede oltre la porta che i bambini si misero a strillare e una delle donne svenne. L'intero villaggio si mise in agitazione. Chi scappava, chi mi attaccava, finché gravemente contuso dai colpi delle pietre e dai molti oggetti che mi vennero lanciati contro, scappai nell'aperta campagna e in preda alla paura mi rifugiai in una bassa catapecchia addossata a un casolare. La catapecchia era costruita in legno, ma era così bassa che mi era difficile starvi seduto con la schiena dritta. Il terreno che faceva da pavimento non era ricoperto di legno, però era asciutto e per quanto il vento entrasse da innumerevoli fessure, io lo ritenni un buon riparo dalla neve e dalla pioggia. Qui dunque mi rifugiai. Appena si fece mattino, sgusciai fuori per vedere l'adiacente casolare e capire se potevo restare in quella catapecchia che avevo trovato. Era addossata al retro della casa. A fianco c'era un recinto per i porci e una pozza d'acqua limpida. L'altro lato invece era libero e da quello mi ero intrufolato. Otturai con pietre e legna ogni fessura attraverso la quale mi si poteva vedere, in modo però da poter rimuovere tutto quando volevo uscire. Finito di sistemare la mia abitazione, ricoperto il terreno di paglia pulita, tornai dentro perché vidi in lontananza una forma umana e ricordando fin troppo bene il trattamento ricevuto la sera prima, non mi fidavo di mettermi nelle sue mani. Prima però avevo fatto provviste per la giornata, rubando una pagnotta rafferma e una tazza per bere l'acqua pura che scorreva accanto al mio rifugio. Decisi di risiedere in questo capanno fino a che non fosse accaduto qualcosa che mi facesse cambiare idea. In effetti, a confronto col mio precedente alloggio, l'inospitale foresta, coi rami grondanti di pioggia e il terreno umido, questo era un paradiso. Mi gustai la mia colazione e mentre mi accingevo a rimuovere un asse per procurarmi un po' d'acqua, sentii dei passi. Quindi guardai attraverso una stretta fessura e vidi una giovane creatura che passava davanti al mio capanno portando un secchio sulla testa. Era una giovane ragazza dal portamento aggraziato. Eppure era vestita poveramente. Il suo abbigliamento consisteva soltanto in una lisa sottana azzurra e un giacchetto di lino. Non v'erano ornamenti fra le sue trecce bionde. Sembrava avere un'indole paziente, ma aveva un'aria triste. La persi di vista. Poi tornò, nel giro di un quarto d'ora, sempre con il secchio, che ora era in parte riempito di latte. Mentre procedeva con l'evidente incomodo di quel peso, le si fece incontro un giovane uomo, il cui volto esprimeva un più profondo sconforto. Emise alcuni suoni con un'aria malinconica e le tolse il secchio dalla testa per portarlo lui nel casolare. Lei lo seguì e scomparvero. Di lì a poco rividi il giovane attraversare il campo dietro il casolare, con alcuni strumenti in mano. Anche la ragazza aveva da fare, a volte in casa, a volte nel cortile. Esaminando la mia dimora, mi accorsi che un tempo vi si affacciava una delle finestre del casolare, i cui riquadri erano stati otturati con assi di legno. Vidi una sottile, quasi impercettibile fessura. attraverso la quale l'occhio poteva sbirciare. Si vedeva una piccola stanza, imbiancata e pulita, ma arredata in modo molto spoglio. In un angolo, vicino a un piccolo fuoco, sedeva un vecchio, con la testa sulle mani, in atteggiamento sconsolato. La ragazza era occupata a rassettare nel casolare, ma a un certo punto tirò fuori da un cassetto qualcosa che richiedeva l'uso delle sue mani e si sedette accanto al vecchio. Il vecchio prese uno strumento, cominciò a suonare e produsse dei suoni più dolci della voce del tordo e dell'usignolo. Una scena incantevole, persino per me, povero disgraziato, che non avevo visto mai nulla di bello. I capelli argentati e il volto benevolo di quel vecchio mi ispirarono rispetto, mentre i graziosi modi della ragazza suscitarono in me grande affetto. Lui suonava un'aria dolce e triste, che mi accorsi faceva sgorgare le lacrime dagli occhi della ragazza, anche se il vecchio non lo notò, finché lei non cominciò a singhiozzare in modo udibile. A quel punto l'uomo emise alcuni suoni e la bella creatura posò il suo lavoro per inginocchiarsi ai suoi piedi. Lui la tirò su e sorrise con una tale dolcezza e affetto che io provai delle sensazioni di una natura molto peculiare e prepotente, un misto di dolore e di piacere che non avevo mai provato prima, quando avevo sentito fame o freddo, trovato calore o cibo. Mi scostai dalla fessura perché non riuscivo a sostenere queste emozioni. Quando calò il buio, mi stesi sul pagliericcio, ma non riuscivo a dormire, pensavo a tutte le cose accadute quel giorno. Quello che mi aveva più colpito erano i modi gentili di queste persone, e desideravo unirmi a loro, ma non avevo il coraggio. Ricordavo troppo bene il trattamento subito la sera prima dai barbari abitanti del villaggio. Il mattino seguente gli abitanti del casolare si alzarono prima che sorgesse il sole. La giornata trascorse secondo lo schema della precedente. Il giovane rimase occupato all'aperto, la ragazza in varie laboriose faccende all'interno. Il vecchio, che presto capì essere cieco, passò il tempo a suonare o a pensare. Non vi potrebbero essere amore e rispetto più grandi di quelli che i due giovani mostravano per il loro venerabile compagno. Tutti i loro gesti d'affetto o le mansioni di accudimento erano svolti per lui con gentilezza, che lui ripagava con i suoi benevoli sorrisi. Però non erano del tutto felici. Spesso il giovane e la sua compagna si appartavano e sembrava che piangessero. Io non vedevo motivo per la loro infelicità, ma ne ero profondamente toccato. Ma perché questi esseri così gentili erano infelici? Passò un bel tempo prima che scoprissi una delle cause del disagio di questa amabile famiglia: la povertà. Il loro nutrimento consisteva unicamente della verdura del giardino e del latte di un'unica mucca che ne produceva ben poco durante l'inverno. Credo che spesso patissero i morsi della fame, specialmente i due giovani, perché di frequente davano da mangiare al vecchio senza tenere niente per loro. Questo aspetto della loro generosità mi commosse alquanto. Durante la notte io ero solito rubare un po' delle loro provviste per il mio consumo. Ma quando scoprii che così facendo procuravo loro sofferenza, smisi di farlo e mi accontentai delle bacche, delle noci, delle radici che raccoglievo in un bosco nei paraggi. Scoprii anche un altro modo che mi permetteva di aiutarli nelle loro fatiche. Mi accorsi che il giovane impiegava buona parte della giornata a raccogliere legna per il focolare e così, durante la notte, io spesso prendevo i suoi attrezzi, che imparai presto ad usare, e gli procuravo legna da ardere sufficiente al consumo di diversi giorni. Ricordo la prima volta che lo feci, quando la giovane donna aprì la porta al mattino. Parve molto stupita nel vedere una grande catasta di legna lì fuori. Pronunciò a voce alta alcune parole e il giovane la raggiunse, esprimendo sorpresa a sua volta. E notai con piacere che quel giorno non andò nella foresta, ma restò a casa a fare dei lavoretti di manutenzione e a coltivare l'orto. A poco feci una scoperta ancora più importante. Scoprì che queste persone possedevano un metodo per comunicare fra loro esperienze e sentimenti attraverso dei suoni articolati. Mi accorsi che le parole che dicevano procuravano, a seconda, piacere o dolore o sorrisi o tristezza nell'animo e nel volto di chi le ascoltava. Questa era proprio una scienza divina e io desideravo ardentemente conoscerla. Ma ogni mio tentativo in questa direzione veniva frustrato. Parlavano rapidamente e non avendo le parole che dicevano un legame per me visibile con oggetti concreti, io non riuscivo a trovare la chiave di accesso a quel misterioso modo di comunicare. Tuttavia, con grande applicazione e nel corso di vari cicli lunari trascorsi nella mia tana, individuai i nomi che venivano dati ad alcuni degli oggetti più frequenti nei loro discorsi. Imparai e capii a cosa connettere la parola fuoco, latte, pane e legna. Appresi anche i nomi degli abitanti del casolare. Il giovane e la sua compagna avevano più di un nome ciascuno, mentre il vecchio ne aveva uno solo, ed era padre. La ragazza veniva chiamata sorella oppure Agata, il giovane Felix fratello o figlio. Io non posso descrivere la gioia che provai quando appresi a quali concetti si riferivano questi suoni e fui in grado di pronunciarli. Distinsi altre parole senza essere ancora in grado di capirle o adoperarle, come buono, carissimo, infelice. Passai l'inverno in questa occupazione. I modi gentili e la bellezza dei miei vicini me li resero molto cari. Quando erano infelici mi sentivo depresso. Quando si rallegravano di qualcosa io partecipavo della loro allegria. In tanta povertà e bisogno, Felix trovava il piacere di portare a sua sorella il primo fiorellino bianco che spuntava dal terreno ancora innevato. Di primo mattino, prima che lei si fosse alzata, lui spazzava la neve che avrebbe scostruito il percorso di lei verso la stalla, tirava su l'acqua dal pozzo e portava la legna nella rimessa, che con suo continuo stupore trovava sempre rifornita per via di una mano invisibile. Altre volte leggeva a voce alta per il vecchio e per Agata. Questa faccenda della lettura a voce alta all'inizio mi sconcertò alquanto. Poi per gradi scoprì che lui, leggendo, pronunciava molti di quei suoni che metteva quando conversava. Supposi dunque che sulla carta lui trovasse e comprendesse dei segni che servivano a parlare. E anch'io desideravo ardentemente comprenderli, ma come fare se non capivo nemmeno le parole di cui quelli erano simboli? Tuttavia feci notevoli progressi in questa scienza, anche se non sufficienti a seguire qualsivoglia tipo di conversazione. Mi impegnai con tutto me stesso, perché mi era molto chiaro che, desiderando ardentemente presentarmi agli abitanti del casolare, non avrei dovuto arrischiarmi prima di essermi impadronito del loro linguaggio. Quella conoscenza, speravo, mi avrebbe permesso di offrirmi al loro sguardo in modo che potessero andare oltre al mio aspetto deforme, di cui ormai ero pienamente consapevole, avendo sempre davanti agli occhi il contrasto offerto da loro. Avendo ammirato le forme perfette dei miei vicini, la loro grazia, la bellezza, la carnagione delicata, quanto mi spaventavo quando vedevo la mia immagine in una pozza trasparente. Le prime volte sobbalzai, arretrando, incredulo che fossi proprio io, riflesso in quello specchio. Quando mi convinsi appieno di essere davvero il mostro che sono, mi colmai delle più amare sensazioni di sconforto e mortificazione. Ahimè, ancora non sapevo fino in fondo quali sarebbero stati gli effetti fatali di questa miserabile deformità. Invece cominciai a ragionare più attivamente, desiderando scoprire i sentimenti di quelle amabili creature. Mi domandavo perché Felix avesse quell'aria così abbattuta e Agatha così triste. Pensavo: che idiota! Che potesse essere il mio potere ridare la felicità a quella gente così meritevole. Li vedevo come esseri superiori. Nella mia immaginazione mi figuravo migliaia di scene in cui io mi presentavo a loro e la loro reazione. Immaginavo prima il loro disgusto, fino al momento in cui io, con i miei modi gentili e le mie parole concilianti, avrei prima ottenuto il loro favore e poi l'affetto. Questi pensieri mi esaltavano e mi portarono ad applicarmi con rinnovato ardore all'apprendimento dell'arte del linguaggio. Certo, i miei organi erano rozzi, ma agili, la mia voce era molto diversa dalla dolce melodia delle loro intonazioni, ma riuscivo a pronunciare le parole che conoscevo con discreta fluidità. Ora il passato era cancellato dalla mia memoria, il presente sereno e il futuro indorato da luminosi raggi di speranza e promesse di gioia. Ora mi avvicino alla parte più toccante della mia storia. Riferirò di quegli eventi la cui esperienza ha avuto su di me l'effetto di mutarmi da quello che ero in quello che sono. La primavera avanzava rapida, il tempo si fece bello e il cielo senza nuvole. Fu in uno di questi giorni che notai in Felix un'indicibile aria malinconica. Sospirava di frequente e a un certo punto suo padre smise di suonare e dai suoi modi immaginai chiedesse al figlio il perché di quell'amarezza. In quel momento qualcuno bussò alla porta. Era una signora a cavallo, accompagnata da un contadino che le faceva da guida. La signora indossava un abito scuro ed era coperta da uno spesso velo nero. Aveva una voce melodiosa, ma diversa da quella dei miei amici. Poi si tolse il velo e a quel punto vidi un volto di una bellezza e un'espressione angeliche. I capelli di un brillante nero corvino, gli occhi scuri ma dolci e vivaci, i lineamenti regolari e proporzionati, la carnagione straordinariamente chiara con guance di un tenue color rosa. Felix apparve rapito di gioia quando la vide, tale da fare svanire ogni segno di amarezza dal suo viso. Non avrei mai creduto che potesse esprimere quella estatica felicità. Gli brillarono gli occhi e arrossì di piacere. E in quel momento mi sembrò tanto bello quanto la straniera. Versando alcune lacrime dai suoi begli occhi, lei tese la mano a Felix, che la baciò deliziato e la chiamò, per quanto potessi capire, la sua dolce araba. Lei sembrava non capirlo, ma sorrise. Lui l'aiutò a smontare da cavallo e la fece entrare nel casolare. Ci fu uno scambio di parole tra lui e suo padre e la giovane straniera si inginocchiò ai piedi del vecchio, voleva baciargli la mano, ma lui la tirò su e l'abbracciò con affetto. Presto capii che nonostante la straniera pronunciasse suoni articolati e sembrava possedere un suo linguaggio, non veniva compresa dai miei vicini, né lei capiva loro. Fecero molti gesti per me indecifrabili, ma mi era chiaro che la sua presenza diffondeva contentezza nella casa, dissipando il dolore dei suoi abitanti come fa il sole con la nebbia del mattino. Mi accorsi presto, dal fatto che la straniera spesso ripeteva dopo di loro lo stesso suono, che lei stava cercando di imparare la loro lingua. Così mi venne subito in mente di approfittare di quelle istruzioni. Alla prima lezione la straniera imparò circa 20 parole. La maggior parte di queste io già le conoscevo, ma ne trassi vantaggio per le altre. I giorni continuarono a passare tranquilli come prima, con la sola differenza che la gioia aveva preso il posto della tristezza sul volto dei miei amici. Safi, questo era il nome della straniera, era sempre allegra e contenta. Sia lei che io facevamo rapidi progressi nell'apprendimento del linguaggio, tanto che nel giro di 2 mesi cominciai a capire la maggior parte delle parole pronunciate dai miei protettori. Posso vantarmi di aver fatto progressi più rapidi dell'araba, che capiva molto poco e conversava con difficoltà. Invece io comprendevo e potevo imitare quasi tutte le parole che si dicevano. Mentre progredivo nel parlare, appresi anche la scienza delle lettere, seguendo le lezioni che venivano impartite da Felix alla straniera. E queste mi dischiusero un campo immenso di meraviglie e diletto. Seppi così dell'indolenza degli asiatici, del grande genio e dell'attività intellettuale dei greci, delle guerre e delle straordinarie virtù degli antichi romani, della cavalleria, della cristianità, dei re. Seppi della scoperta dell'emisfero americano e piansi con Safi per lo sventurato destino dei suoi nativi abitanti. Che racconti meravigliosi! Era l'uomo dunque al tempo stesso un essere così potente, virtuoso, magnifico, eppure maligno e vile. A volte l'uomo sembrava soltanto l'erede di principi malvagi, altre quanto di più nobile e simile a un dio si possa concepire. Seppi lo strano sistema della società degli uomini, venni a sapere della divisione delle proprietà, di immense ricchezze e squallida miseria, di rango, discendenza, sangue nobile. E io? Che cosa ero io? Ignoravo completamente le circostanze della mia creazione e chi mi avesse creato. Sapevo in compenso di non avere né denaro, né amici, né alcun tipo di proprietà. Inoltre ero dotato di una figura orribilmente deforme e disgustosa. Non ero neanche della stessa natura di un essere umano. Se mi guardavo intorno, non vedevo né sentivo parlare nessuno come me. Ero dunque un mostro che macchiava la faccia della terra e da cui tutti fuggivano e che tutti ripudiavano? Io non posso descriverti l'angoscia che mi arrecavano questi pensieri. Provai a scacciarli, ma la consapevolezza cresceva il dolore. Fossi rimasto per sempre nel mio bosco natale e non avessi mai conosciuto o provato altre sensazioni che la fame, la sete e il caldo. Che cosa strana è la conoscenza. Quando afferra la mente vi si attacca come un lichene alla roccia. A volte desideravo sbarazzarmi di ogni pensiero e ogni sentimento, ma sapevo che c'era solo un modo per vincere la sensazione del dolore, e questo era la morte. Una condizione che temevo, anche se ancora non capivo. Ammiravo la virtù e i buoni sentimenti, amavo i modi gentili e le amabili qualità dei miei vicini, ma ero escluso dall'interazione con loro, se non per via di quanto ottenevo di nascosto, non visto e a loro ignoto, e questo accresceva il mio desiderio di diventare uno di loro, invece di soddisfarlo. Le gentili parole di Agatha, i sorrisi vivaci dell'incantevole araba, non erano rivolti a me. Miserabile, infelice, sventurato. Rimasi ancora più profondamente colpito da altre lezioni. Venni a sapere della differenza dei sessi, della nascita e della crescita dei bambini, di come un padre vada matto per i sorrisi del neonato e per le geniali uscite di quando è già fanciullo. Che cos'è un fratello, una sorella e tutti i gradi di parentela che uniscono un essere umano all'altro con mutui legami. Ma dov'erano i miei amici e i miei parenti? Nessun padre aveva vigilato sui giorni della mia infanzia. Nessuna madre mi aveva benedetto con sorrisi e carezze. O se le avesse fatto, il mio passato era adesso una macchia scura, un vuoto cieco in cui non distinguevo nulla. Fin dai miei primi ricordi ero così come allora, per altezza e proporzioni. Non avevo ancora visto un essere che mi somigliasse o che desiderasse una qualunque relazione con me. Che cosa ero? La domanda continuava a presentarsi per ricevere risposta solo gente. Nel dare conto dello sviluppo del mio intelletto, non devo omettere una circostanza che si verificò all'inizio del mese di agosto di quello stesso anno. Una notte, durante il mio abituale giro nel bosco circostante, dove mi procuravo il cibo e raccoglievo la legna per i miei protettori, trovai a terra una bisaccia di cuoio che conteneva diversi capi di abbigliamento e dei libri. Mi impossessai con avidità di quel bottino e lo portai nella mia tana. Si trattava del Paradiso Perduto, un volume delle Vite di Plutarco e i Dolori del giovane Werther. Il possesso di questi tesori mi donò un grande diletto. Ora, quando i miei amici erano impegnati alle loro ordinarie occupazioni, io passavo il tempo a studiare queste storie e con queste a esercitare la mia mente. Questi libri generarono in me un'infinità di nuove immagini e sensazioni, a volte portandomi all'estasi, più spesso gettandomi nel più profondo avvilimento. Ma a provocare in me le emozioni più profonde fu il Paradiso Perduto. Io lo lessi come avevo letto gli altri volumi, cioè come una storia vera. E spesso ero colpito dalla somiglianza. Io, come Adamo, ero stato creato privo di alcun legame apparente con qualunque altro essere vivente. Anche se la sua condizione era molto diversa dalla mia, Adamo era provenuto dalle mani di Dio come creatura perfetta, felice, prospera, protetta dalla speciale cura del suo creatore. Io ero miserabile, disperato, solo. Molte volte ritenevo che Satana fosse l'emblema più consono alla mia condizione, perché spesso, come lui, quando osservavo la fortunata vita dei miei protettori, sentivo crescere in me l'amaro fiele dell'invidia. Ma un altro episodio rafforzò e confermò questi sentimenti. Avevo trovato delle carte nella tasca dell'abito preso al tuo laboratorio. In un primo momento non gli avevo dato importanza, Ma ora io ero in grado di decifrare i caratteri con cui erano scritte e mi misi a studiarle attentamente. Era il tuo diario dei 4 mesi che precedettero la mia creazione. In queste pagine descrivevi con minuzia ogni passo che avevi compiuto nel corso del tuo lavoro, contrappuntando qua e là da narrazione con dettagli di vita domestica. Sono sicuro che ricordi queste pagine. Vi hai riportato tutto quanto concerne la mia maledetta origine. Vi hai illustrato dettagliatamente tutta la serie di disgustosi eventi che la produssero. Vi hai esposto alla più minuziosa descrizione della mia spregevole e ripugnante persona, con parole che descrivono il tuo orrore e che resero il mio indelebile. Mi sentivo male a leggerle. Infausto il giorno in cui io ricevetti la vita. Maledetto creatore, perché hai dato forma a un mostro così orrendo, da cui perfino tu sei rifuggito con disgusto? Dio, nella sua misericordia, creò l'uomo bello e attraente a sua immagine e somiglianza. Invece, le mie fattezze sono una sconcia versione delle tue. E la somiglianza le rende ancora più abominevoli. Questi erano i pensieri nelle mie ore di sconforto e solitudine. Ma quando contemplavo le virtù dei miei vicini, dal carattere così amabile e benigno, mi convincevo che loro avrebbero provato compassione per me e della mia deformità non avrebbero tenuto conto. Potevano cacciare via dall'uscio uno che, per quanto mostruoso, chiedeva soltanto la loro amicizia e pietà. A ogni modo decisi di non disperare e prepararmi invece a un incontro con loro che avrebbe deciso il mio destino. Rimandai ancora di qualche mese perché davo una tale importanza al successo del mio tentativo da essere in preda al terrore del mio fallimento. E poi vedevo che le mie capacità intellettuali progredivano così tanto con l'esperienza di ogni giorno che non volevo immettermi in questa impresa prima che un altro po' di mesi arricchissero la mia sapienza. Così passò l'autunno. La felicità degli abitanti del casolare non diminuiva con la fine dell'estate. Si amavano, si comprendevano l'un l'altro e la loro gioia dipendeva da quella dell'altro. E io più li vedevo, più desideravo chiedere la loro protezione, il loro affetto. Il mio cuore si struggeva ad essere conosciuto e amato. La mia ambizione più alta era quella di vedere i loro sguardi rivolti con affetto verso di me. E così arrivò anche l'inverno. Io ero interamente concentrato sul mio piano di introdurmi nel casolare dei miei protettori. Valutai molti progetti, ma infine scelsi quello di entrare nell'abitazione quando il vecchio cieco si fosse trovato da solo. Avevo la sagacia di intuire che la bruttezza innaturale della mia persona era il motivo principale dell'orrore di chi mi aveva precedentemente incontrato. La mia voce era roca, sì, ma non aveva niente di terribile. Pensai dunque che se in assenza dei suoi figli avessi potuto conquistare la benevolenza e l'intercessione del vecchio, avrei potuto, grazie a lui, venire tollerato dai miei protettori più giovani. Un giorno, quando il sole splendeva sulle foglie rossicce sparse a terra e emanava allegria, Safi, Agata e Felix andarono a fare una lunga passeggiata, lasciando il vecchio per suo desiderio da solo nel casolare. Una volta che i figli se n'erano andati, lui prese la sua chitarra e suonò diverse arie, tristi, ma dolci. Più dolci e più tristi di quelle che gli avevo sentito suonare fino ad allora. Dapprima il suo volto era illuminato di letizia, ma continuando a suonare le preoccupazioni e la tristezza presero il sopravvento. Infine posò lo strumento e rimase a sedere, assorto nei suoi pensieri. Il mio cuore batteva veloce. Questa era l'ora, il momento cruciale che avrebbe reso decisive le mie speranze o vere le mie paure. V'era solo silenzio dentro e intorno al casolare. L'occasione era eccellente, eppure quando mi accinsi all'esecuzione del piano, mi tremarono le gambe e caddi a terra. Mi rialzai ed esercitato tutta la fermezza che possedevo, tolsi le tavole che avevo fissato all'ingresso della mia tana. L'aria era fresca, mi inebriò, e con rinnovata determinazione mi avvicinai alla porta del loro casolare. Bussai. «Chi va là?» disse il vecchio. «Entrate!» Entrai. «Perdonate l'intrusione», dissi. «Sono in viaggio e ha bisogno di riposo. Mi fareste una grande cortesia se mi lasciaste restare qualche minuto vicino al fuoco». «Entrate», disse il vecchio. «Proverò a soddisfare i vostri bisogni. Sfortunatamente i miei figli sono via di casa e, essendo io cieco, temo che mi sarà difficile procurarvi del cibo». «Non datevi pena, ospite gentile, cibo ce l'ho. Quello di cui ho bisogno è un po' di calore e di riposo». Mi sedetti e poi ci fu silenzio. Sapevo che ogni minuto era per me prezioso, ma non riuscivo a decidere come iniziare la conversazione. Finché non fu il vecchio a rivolgersi a me. «Dal vostro linguaggio deduco che siete del mio paese. Siete francese?» «No, ma sono cresciuto in una famiglia francese e capisco solo questa lingua. Intendo chiedere la protezione di alcuni amici che, amo sinceramente e nutro una certa speranza di ricevere i loro favori. Io sono una creatura sfortunata e abbandonata. Mi guardo intorno e non ho parenti né amici al mondo. Queste persone amabili a cui io mi rivolgo non mi hanno mai visto e ben poco sanno di me. Ho tanta paura. Se fallisco con loro sarò per sempre un reietto». «Ma non disperate. Non avere amici è certamente una sfortuna, ma il cuore degli uomini, se non è prevenuto da qualche evidente interesse personale, è colmo di amore fraterno e di carità. Confida nelle tue speranze. Se questi amici sono veramente buoni e amorevoli, non c'è da disperare. Sono gentili, sono le più eccellenti creature del mondo, ma sfortunatamente hanno dei pregiudizi su di me. Io ho un buon carattere. Fino ad oggi ho condotto una vita innocua e in qualche modo benefica, ma c'è un pregiudizio fatale che gli offusca la vista. E invece di vedere un amico sensibile e gentile, vedono solo un mostro detestabile. Questa è una vera sfortuna, ma se davvero voi siete innocente, non potete dimostrargli che si ingannano. Sto per tentare l'impresa, ed è proprio per questo che provo un terrore così dirompente. Io amo teneramente questi amici. A loro insaputa ho passato molti mesi a fargli quotidiane gentilezze, ma loro credono che io voglia fargli del male, ed è questo un pregiudizio che io desidero sconfiggere. Dove abitano questi amici? Qui, vicino». Il vecchio fece una pausa, poi continuò. «Se mi confiderete senza riserve i dettagli della vostra storia, forse potrò aiutarvi a trarli l'inganno. Sono cieco, non posso giudicare il vostro aspetto, ma c'è qualcosa nelle vostre parole che mi induce a credere che siate sincero. Io sono povero e in esilio, ma mi darà grande piacere essere in qualche modo di aiuto a una creatura umana. Uomo eccellente, io vi ringrazio e accetto la vostra generosa offerta. Con la vostra gentilezza mi sollevate dalla polvere e io confido che con il vostro aiuto non sarò allontanato dalla comprensione e dalla compagnia dei vostri simili. Che il cielo non voglia. Io compatisco le vostre sventure, ma come posso ringraziarvi, mio sommo e unico benefattore? È dalle vostre labbra che ho sentito per la prima volta rivolgere a me parole gentili. Io vi sarò grato per sempre. La vostra comprensione umana mi assicura adesso del successo con quegli amici che sto per incontrare. Potrei sapere il nome e il luogo in cui risiedono questi amici?» Feci una pausa. Questo, pensai, era il momento decisivo. Quello che mi avrebbe per sempre tolto o donato la felicità. Invano lottai per trovare la fermezza sufficiente per rispondere. Ma quello sforzo mi privò di tutta l'energia che mi restava e mi abbandonai su una sedia e scoppiai in singhiozzi. E in quel momento udii i passi dei miei protettori più giovani. Non avevo un momento da perdere. Afferrai la mano del vecchio e gridai: «Adesso, questo è il momento! Salvatemi! Proteggetemi, siete voi e la vostra famiglia gli amici che cerco. Non mi abbandonate nell'ora del giudizio. Un Dio, esclamò il vecchio, ma chi siete? In quel momento si aprì la porta del casolare ed entrarono Felix, Safi e Agata. Chi potrebbe descrivere l'orrore e la costernazione che provarono nel vedermi? Agata svenne, Safi scappò fuori, Felix balzò in avanti e con una forza soprannaturale mi strappò da suo padre, alle cui ginocchia io ero avvinto. In un impeto di furia mi scaraventò a terra e mi colpì violentemente con un bastone. Io avrei potuto lacerarlo come il leone fa pezzi l'antilope, ma mi mancò il cuore che si affossò nel petto per l'acuto dolore e mi trattenni. Quando lo vidi sul punto di riassestare il colpo, sconvolto di angoscia e dolore, scappai dal casolare e nel tumulto generale riuscii a rifugiarmi non visto nella mia tana. Dannato! Dannato creatore! Perché ero ancora vivo? Perché in quelle istanze non si estinse la scintilla di vita che tu, così sconsideratamente, avevi acceso in me? Provavo rabbia, desiderio di vendetta! Avrei goduto nel distruggere il casolare con tutti i suoi abitanti e mi sarei saziato delle loro grida, dei loro tormenti! Quando giunse la notte, lasciai il mio rifugio e vagai per il bosco. Ormai non temevo più di essere scoperto, quindi sfogai la mia angoscia in spaventosi ululati. Ero come una bestia selvaggia che avesse spezzato le catene. Distruggevo tutto ciò che ostruiva il mio cammino e correvo per il bosco con la velocità di un cervo. Che notte miserabile passai. Tutto intorno a me godeva del riposo, del piacere, tutto tranne me che portavo dentro l'inferno. Desideravo sradicare gli alberi, spargere intorno a me rovina, distruzione, per poi sedermi e godere di quelle macerie. Non v'era nessuno tra le miriadi di esseri umani esistenti che sarebbe stato mosso a compassione per me o mi avrebbe aiutato. Perché avrei dovuto io provare fratellanza per i miei nemici? No! Da quel momento dichiarai guerra eterna alla specie umana, ma soprattutto a colui che mi aveva dato forma, gettandomi in questa intollerabile sofferenza. Poi il sole si levò. Udii voci di uomini e capii di non poter tornare al mio rifugio durante il giorno. Allora mi nascosi nella fitta boscaglia, determinato a trascorrere le ore seguenti a riflettere sulla mia situazione. La piacevole luce del sole e l'aria pura del giorno ristabilirono in me una certa tranquillità e nel ripensare a quanto accaduto al casolare non potei fare a meno di credere di essere stato troppo avventato nel trarre conclusioni. Avevo senz'altro agito in modo poco prudente. La mia conversazione aveva evidentemente suscitato interesse nei miei confronti da parte del padre ed ero stato un folle ad aver esposto la mia figura allo sguardo orripilato dei figli. Avrei dovuto prima familiarizzare con il vecchio e solo col tempo mi sarei dovuto rivelare al resto della famiglia, quando fossero stati più pronti all'incontro, ma quegli errori non mi sembravano irreparabili. E dopo averci pensato a lungo, decisi di tornare al casolare, cercare il vecchio e, ripresentandomi a lui, portarlo dalla mia parte. Questi pensieri mi calmarono e nel pomeriggio caddi in un sonno profondo. Mi svegliai che era già notte, sgattaiolai fuori dal mio nascondiglio e andai in cerca di cibo. Placata la fame, indirizzai i miei passi lungo il ben noto sentiero che portava al casolare. Lì tutto era tranquillo. Mi infilai nella mia tana e restai in silenziosa attesa dell'ora in cui solitamente la famiglia si alzava. Quell'ora passò. Il sole salì alto nel cielo, ma gli abitanti del casolare non si vedevano. Tremai al pensiero di una qualche terribile sciagura. L'interno del casolare era buio. E non sentivo muoversi niente. Io non so descrivere l'ansia di questa attesa. Di lì a poco arrivò Felix con un altro uomo e lo sentii dire Non possiamo più abitare nel vostro casolare. La vita di mio padre è in grande pericolo per i terribili fatti che vi ho raccontato. Mia moglie e mia sorella non si riprenderanno mai dallo spavento. Vi supplico, riprendete possesso della vostra proprietà e lasciatemi andare via da questo posto. Nel dire queste parole Felix tremava. Poi se ne andarono. E io passai il resto della mia giornata nella mia tana, in uno stato di totale e instupidita disperazione. I miei protettori se n'erano andati, spezzando l'unico vincolo che mi legava al mondo. Per la prima volta sentendo nascere nel mio petto sentimenti di odio e di vendetta, non tentai di placarli, ma mi lasciai portare dalla loro corrente, volgendo la mia mente a pensieri di oltraggio e di morte. Se ripensavo ai miei amici, alla pacata voce del vecchio, ai dolci occhi di Agata e la squisita bellezza dell'araba, questi pensieri svanivano e le lacrime che sgorgavano dai miei occhi mi placavano un po'. Ma quando poi mi ricordavo che loro mi avevano respinto e abbandonato, la rabbia tornava, una rabbia furiosa, e a quel punto, nell'impossibilità di nuocere ad alcunché di umano, volgevo la mia ira contro tutti gli oggetti inanimati. Con l'avanzare della notte, dal bosco salì un forte vento che disperse le nuvole che ingombravano il cielo. Le raffiche di vento arrivarono con l'impeto di una valanga, generando una sorta di follia nel mio spirito che infranse tutti i limiti della ragione e del buonsenso. Accesi il ramo secco di un albero e mi misi a danzare con furia intorno all'amato casolare, con lo sguardo puntato verso la luna. Quando infine una parte della sua orbita era ormai nascosta, io agitai il mio tizzone. Poi la luna sparì e, lanciando un fragoroso grido, diedi fuoco alla paglia, agli sterpi, ai cespugli che avevo radunato. Il vento alimentava il fuoco e il casolare fu presto avvolto dalle fiamme. E quando fui certo che nessuna parte dell'abitazione potesse essere salvata, abbandonai la scena e cercai rifugio nel bosco. Ma io no. Il mondo davanti a me, dove avrei diretto i miei passi. Scelsi di allontanarmi il più possibile dal luogo delle mie sciagure, ma per me un essere odiato e disprezzato qualunque posto sarebbe stato orribile. Infine la mia mente fu attraversata dal pensiero di te. Avevo appreso dalle tue carte che tu eri mio padre, il mio creatore. Chi avrei potuto rivolgermi più opportunatamente che a colui che mi aveva dato la vita? Scrivevi che Ginevra era il nome del tuo paese natale, quindi decisi di andare in questa direzione. Ma come potevo indirizzarmi? Non conoscevo i nomi delle città che avrei attraversato, né potevo chiedere informazioni a un essere umano. Eppure non disperai. Solo da te potevo sperare di ottenere una qualche soccorso, anche se nei tuoi confronti non provavo altro che odio. Creatore insensibile, senza cuore, mi avevi dotato di percezioni e passioni, E poi mi avevi gettato via, lasciandomi oggetto di scorno e di orrore per l'umanità. Il mio viaggio fu lungo e intense le sofferenze che sopportai. Cadeva la neve, le acque erano ghiacciate, ma io non mi fermavo. E c'è una cosa in particolare che accadde al mio arrivo ai confini della Svizzera, che confermò in modo speciale l'amarezza e l'orrore dei miei sentimenti. Di solito durante il giorno riposavo e viaggiavo soltanto quando la notte mi proteggeva dalla vista degli uomini. Una mattina però, dato che il mio percorso procedeva per un fitto bosco, mi avventurai a continuare il viaggio dopo che il sole era sorto. La giornata, una delle prime di primavera, allietava persino me, grazie all'amabile luce del sole e alla fragranza dell'aria. Sentivo risvegliarsi in me emozioni che mi erano parse morte da tempo, come la dolcezza e il piacere. E mezzo sorpreso dalla novità di queste sensazioni, mi concessi di abbandonarmici e, dimenticando la mia solitudine, la mia deformità, osai essere felice. Un pianto sommesso. Nuovamente irrorò le mie guance e arrivai persino a sollevare gli occhi al cielo con gratitudine per quel sole benedetto che dispensava tanta gioia per me. Continuai a seguire i tortuosi sentieri del bosco finché giunsi ad un fiume rapido e profondo, verso il quale molti alberi piegavano i loro rami, ora carichi di freschi boccioli primaverili. Qui mi fermai, non sapendo esattamente quale strada seguire, quando sentii delle voci che mi indussero a nascondermi all'ombra di un cipresso. M'ero appena nascosto che una ragazzina avanzò correndo verso il luogo dove mi celavo, ridendo come se per gioco scappasse da qualcuno. Continuava a correre lungo le rive scoscese del fiume quando ad un tratto un piede scivolò e lei cadde nella corrente impetuosa. Io subito accorsi dal mio nascondiglio e, faticando non poco contro la forza della corrente, riuscii a metterla in salvo e la trascinai a riva. Aveva perso i sensi ed io cercai, con tutto ciò che era in mio potere, di rianimarla, quando venni interrotto dall'improvviso apparire di un contadino, probabilmente l'uomo da cui lei per gioco scappava. Vedendomi, si scagliò contro di me e, strappandomi la ragazza dalle braccia, si affrettò verso la zona più folta del bosco. Io li rincorsi senza sapere perché. Ma quando l'uomo mi vide avvicinare, puntò contro il mio corpo il fucile che portava con sé e sparò. Io stramazzai al suolo e l'uomo che mi aveva ferito scappò nel bosco. Questo era dunque il premio per la mia buona azione. Avevo salvato dalla morte un essere umano e, come ricompensa, ora mi contorcevo per l'acuto dolore di una ferita che aveva dilaniato la carne fino all'osso. A quei sentimenti di bontà e di gentilezza che mi ero concesso fino a pochi minuti prima si sostituì una rabbia infernale. Infiammato dal dolore, giurai eterno odio e vendetta sul genere umano. Poi lo strazio della mia ferita mi sopraffece e svenne. Per alcune settimane condussi una misera vita nei boschi, tentando di curare la ferita ricevuta. Il proiettile mi era entrato nella spalla e non avevo modo di estrarlo. Dopo alcune settimane la mia ferita guarì e riprese il mio viaggio. Le mie fatiche non erano più alleviate dal sole splendente o dalla dolcezza della brezza di primavera. Anzi, ogni gioia era solo una beffa, un insulto alla mia desolante condizione che riusciva soltanto a farmi sentire più amaramente che non ero fatto per godere alcun piacere. Ma le mie tribolazioni stavano per terminare e nel giro di 2 mesi arrivai nei dintorni di Ginevra. Arrivai di sera e mi rifugiai in un nascondiglio nei campi che la circondavano per meditare su come rivolgermi a te. Ero oppresso da fame e fatica e troppo infelice per godermi la gentile brezza della sera o la vista del sole che tramontava. Ad alleviare i miei pensieri sopraggiunse un sonno leggero che venne disturbato però dall'arrivo di un bellissimo bambino che correva verso il rifugio che mi ero scelto con tutta l'esuberanza dell'infanzia. Un tratto, mentre lo guardavo, mi venne in mente che questa piccola creatura potesse essere priva di pregiudizi e avesse vissuto troppo poco per avere assimilato il senso dell'orrore per la deformità. Se quindi io fossi riuscito a catturarlo e a crescerlo come mio compagno e amico, non sarei stato così solo su questa popolosa terra. Spinto da questo impulso, afferrai il bambino che passava e lo tirai a me. Appena mi vide, si mise le mani sugli occhi ed emise un grido acuto. Io lo costrinsi a togliere le mani dagli occhi e dissi: «Bimbo mio, che vuol dire tutto questo? Non intendo farti del male, ascoltami!» Lui si dimenava violentemente. «Lasciami andare!» gridava. «Mostro! Brutto cattivo! Mi vuoi mangiare? Tu vuoi farmi a pezzi? Sei un orco! Lasciami o lo dico a papà!» «Ragazzino, tu non lo vedrai mai più tuo padre, tu verrai con me!» «Orribile mostro, lasciami! Mio papà è una persona importante, è il signor Frankenstein, ti punirà! Non puoi tenermi con te!» «Frankenstein, tu appartieni dunque al mio nemico? Quello a cui ho giurato eterna vendetta!» Il bambino continuava a dimenarsi e mi copriva di insulti che arrecavano disperazione al mio cuore. Allora io afferrai la sua gola per farlo stare zitto, zitto, zitto! E in un momento me lo trovai steso ai miei piedi, morto. Guardavo la mia vittima e il mio cuore si gonfiava di un esaltante, infernale trionfo. Battei le mani e dissi: «Anche io posso creare annientamento! Il mio nemico non è invulnerabile! Questa morte gli recherà disperazione e migliaia di altre sciagure lo tormenteranno fino a distruggerlo!» Tenendo gli occhi fissi sul bambino, vidi qualcosa di luccicante sul suo petto. Lo presi. Era il ritratto di una bellissima donna. Nonostante la mia cattiveria, mi intenerì e mi incantò. Ma molto presto la mia rabbia tornò. Mi ricordai che io ero stato privato per sempre delle gioie che possono arrecare delle creature così belle e che lei, quella di cui contemplavo le fattezze, vedendo me, avrebbe perso quell'aria di divina benevolenza per acquistarne una di disgusto e spavento. Ti meraviglia che questi pensieri mi portassero all'ira? Io mi meraviglio soltanto di come, in quel momento, invece di sfogare le mie sensazioni in esclamazioni di tormento, non mi fossi gettato in mezzo agli uomini per distruggerli tutti. Ancora, in preda a quei sentimenti, lasciai il luogo del delitto in cerca di un nascondiglio più riparato. Quando scorsi una donna che mi passava vicino. Era giovane, di aspetto gradevole, nel fiore degli anni e della salute. Eccone un'altra, di quelle i cui sorrisi sono rivolti a tutti tranne che a me, pensai. Mi avvicinai e senza farmi accorgere infilai il ritratto in una delle tasche del suo abito. Per alcuni giorni mi aggirai nel luogo dove si erano svolti questi avvenimenti. A volte con il desiderio di incontrarti, a volte deciso a lasciare per sempre il mondo e le sue miserie. Infine mi diressi verso queste montagne. Ho vagato per tutti i loro immensi recessi, consumato da una passione cocente che solo tu puoi soddisfare. Noi non ci potremmo separare fino a che non mi avrai promesso di acconsentire alla mia richiesta. Io sono solo e infelice. L'essere umano non si accompagnerà mai a me. Ma una creatura altrettanto deforme e orribile non si negherebbe alla mia compagnia. Se fosse della stessa specie e avesse i miei stessi difetti. Tu devi creare questo essere.